Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Verso il traguardo di Valmartello, una giornata storica per il Giro d'Italia, una giornata nel segno di Nairo Quintana, che mette una ipoteca grande così a questo punto, anche sulla conquista del Giro. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say. Mai parlato di neutralizzare quei tornanti o quel pezzo di corsa? Mi dispiace che sia venuta fuori questa incomprensione, però io ho risentito per la prima volta cosa aveva detto Radio Corsa e non mi sembra che abbia mai parlato di neutralizzazione. Magari poteva essere più chiaro, però io dico, se ho un corridore che maglia, in quel momento, prima di cadere in qualsiasi trappola, chiedo, mi informo, non rischio. Come back in here. Ciao a tutti, oggi non partiamo dal calcio ma dal casino che è successo ieri al Giro d'Italia. L'avrete letto e sentito, un casino in piena regola che avrà delle ripercussioni anche sulla tappa di oggi, con polemiche che non si sono ancora spente, con una comunicazione Radio Corsa, ne abbiamo fatto sentire un brano prima come puro effetto sonoro, dato che non è facilmente comprensibile in questo modo, però Radio Corsa che parla di insomma, a 3 km dalla vetta dello Stelvio ieri, 3 km a 3 km dalla vetta dello Stelvio, Radio Corsa dice fermi tutti, ci sarà una moto davanti ai gruppetti. Insomma, il significato voleva essere la tappa è annullata, anche se, come avete sentito dal direttore del Giro d'Italia Vegni, non si parla direttamente di annullamento. Però cosa succede? Succede che Quintana si sbatte giù dalla discesa dello Stelvio, pericolosissima come una furia. Succede che invece altri, come il nostro Aru, come la maglia rosa Uran, si fermano sulla vetta dello Stelvio tremanti, si cambiano i vestiti, se la prendono comoda, insomma. Quintana se ne frega, va giù come un ossesso da quella discesa pericolosissima, come normale per un corridore in bicicletta, come chi fa questo mestiere si sente tenuto a fare, non capisce o finge di non capire. Poi sull'ultima salita sale come una furia, batte tutti con distacchi enormi, visto il ciclismo di oggi, mette la maglia rosa e adesso li ha tutti contro. Io ve lo dico subito, sto con Quintana, perché i corridori fanno così. Da verificare invece, oltre alla rabbia di tutti gli altri, il comportamento e la linearità della direzione dei giudici del Giro d'Italia, perché nel calcio c'è un arbitro, in una corsa ciclistica a maggior ragione importante come il Giro d'Italia c'è una giuria, ed è la giuria che deve decidere, signori, non Nairo Quintana che fa il corridore. Un altro Pierre oggi per aprire il programma, non Pardo che arriverà dopo, ma Stagi. Ciao Pier Augusto. Oggi vinco io, quindi ho battuto Pardo in volata, sì. Anzi no, facciamo per distacco sullo Stelvio pieno di neve. Allora, oggi tappa tranquilla, almeno al momento. Stanno andando veloci, però arriva Vittorio a Veneto, salite non ce ne sono. Sì, però il punto non è tanto la tappa di oggi quanto quella di ieri, quanto il clima che c'è all'interno del Giro d'Italia. Sì. Comunque se ne parlerà per giorni e giorni. Questo Giro d'Italia è segnato dalla tappa di ieri, da le bandierine rosse, dai tweet, allora, dalla direzione di corsa che allora, facciamo così, nel pallone. Allora, c'è stato, per riepilogare e mettere tutti i punti della cronaca, c'è stata questa comunicazione di Radio Corsa alle ammiraglie che non parlava di neutralizzazione, giusto? Esattamente, a 3 chilometri dalla vetta dello stadio. Non si parlava di neutralizzazione, però c'è anche un altro mistero, che è quello di un tweet con l'hashtag Giro d'Italia, quindi il tweet ufficiale Giro d'Italia che diceva? E che diceva sostanzialmente tappa neutralizzata in due lingue, italiano e inglese. Questo è arrivato, in realtà addirittura è arrivata prima della comunicazione di Radio Corsa, però il problema è che le ammiraglie l'hanno visto lungo la discesa, quando sono tornate le linee, perché come sapete ci vuole internet e a 2800 metri ci sono delle difficoltà di collegamento. Sì. Quindi in fondo alla discesa molti direttori sportivi, diciamo come dice Beppe Martinelli, quelli giovani, sì, che smantellano i cellulari, perché Beppe invece non l'ha visto perché non gliene importa nulla e non usa la tecnologia, molti si collegano, no, ma guarda che è confermato, la tappa è neutralizzata, è arrivato anche dall'hashtag Giro d'Italia, sì, la conferma che la tappa è neutralizzata. Sì. In realtà, onore del vero, come probabilmente avete già sentito, i radioascoltatori hanno già ascoltato, Radio Corsa non ha mai parlato di neutralizzazione, ma l'equivoco è venuto fuori, diciamo, c'è stata una pietra tombale a rendere veramente il caos il giro, è stato questo tweet. Sì. Dopo, a completare ulteriormente, sono venute fuori le Safety Bike. Esatto, poi c'è la storia delle Safety Bike. Una giuria che praticamente era lì che guardava e non decideva nulla. Una giuria che era lì e che dormiva. In più, la vicenda complicata ulteriormente da questa storia delle bandiere rosse, delle Safety Bike, di cui parliamo dopo il traffico, che è un'innovazione assoluta introdotta non nella corsa patronale, ma al Giro d'Italia. E questa non mi sembra tuttora una grandissima idea. Convocati. Allora, i contorni della vicenda, ma a questo punto mi sembrano abbastanza chiari o chiariti, no? C'è da in sospeso, Pier Augusto, raccontiamolo un'altra volta ancora, questa storia delle bandiere rosse, delle safety bike e di tutte queste invenzioni che sono state appunto sperimentate al Giro d'Italia. Giro d'Italia 2014, ripeto, non alla corsa dei bar. Sì, può sembrare assurdo, ma è così. Questi motociclisti, questi safety bike, con le loro belle bandierine rosse, sono, diciamo, un'innovazione introdotta in questo Giro d'Italia dal direttore del Giro, che è Mauro Vegni. Potrebbe essere anche in futuro una bellissima idea, ma al momento non è né regolamentata da un regolamento dell'UCI. E le squadre e i corridori sono anche tenuti a non conoscere né il significato né, sì, il senso di tutto questo. Né l'utilizzo pratico. Nell'utilizzo pratico, Mauro Vegni, la sua intenzione era chiaramente buona, no? Sì. Voleva mettere in sicurezza i corridori, quindi segnalare ai corridori che stavano affrontando una discesa pericolosa, con strada bagnata, a tratti ghiacciata, e segnalare curve, anche perché ci si era anche creata una situazione di problemi di visibilità per la nebbia. Quindi voleva semplicemente rendere più facile e, sì, agevole dei corridori. Il problema è che appunto Quintana si trova davanti a una moto con una bandierina rossa, può benissimo non capire, e anzi non ha capito, sì, non sa i casi di quella bandierina rossa. Lui ha fatto la sua corsa, ma ha fatto benissimo, e ha fatto la corsa, per lui non era né sospesa né neutralizzata, era semplicemente una corsa in cui era davanti e stava andando come un matto su un rischio e pericolo. C'è solo un organismo che può sospendere la corsa, che è il presidente di giuria, il collegio di giuria, l'arbitro delle gare ciclistiche. E quindi doveva andare là l'ammiraglia del presidente di giuria e dire: caro Nairo, ti fermi, accosta un attimo, neutralizziamo la corsa. Allora lì da regolamento si prendono i tempi di ciascun corridore, sì, no? I distacchi, si neutralizza la gara e poi si riparte in un altro punto che il presidente di giuria decide, e fa ripartire i corridori col tempo, con il vantaggio acquisito, a meno che non sia inferiore ai 20 secondi, che allora è incidente tecnico e viene annullato. Quindi se tu vieni fermato a 20 secondi di vantaggio sul gruppo, vieni fermato e vieni ricompattato. Sì, punto. Sì. Questo non è avvenuto, quindi Nairo Quintana e la Movistar hanno fatto la loro corsa. Il problema è che sono successe tante cose strane che in parte sollevano anche e danno una, giustificano la figura dei polli del resto del gruppo, hai capito? Perfetto. Da altre squadre, questa è la situazione paradossale. Cioè, la situazione paradossale è che adesso, per eccesso di zelo da parte degli organizzatori, volevano introdurre la grande puntata del secolo, esatto. E invece clamorosamente peccato che non trattandosi, come dicevo prima, della corsa dei bar, i corridori professionisti fanno quello che devono fare, e cioè vanno più velocemente possibile, talvolta a loro rischio e pericolo, perché abbiamo parlato a proposito delle volate, ne parliamo ogni volta a proposito di discese insidiose, pericolose. Il corridore, quando è lì, esattamente col pilota di Formula 1 o quello del moto mondiale, da gas, però non sta a fermarsi, se la sente di rischiare, lui va, e Quintana non l'hanno portato in braccio, cioè è sceso da quella discesa rischiando la cabeça ed è salito con le sue gambe e non in moto su quella salita, e la maglia rosa se l'è messa addosso, se gli altri dormono non è colpa sua, giusto? E tra l'altro Quintana non è un fatto marginale, ha guadagnato nell'ultima salita al martello 2 minuti su tutti, e non era discesa, è arrivato con un vantaggio di 3 minuti e mezzo, quindi quello bisogna riconoscerglielo assolutamente, certo. Il problema è che questa serie di inconvenienti, questa serie di pasticci hanno reso il tappone del Giro d'Italia e l'impresa di Nairo Quintana piccola. Doveva essere la grande impresa, invece è venuta fuori. Certo, ma allora, ti chiedo due cose secche ancora. Qual è ora l'atteggiamento del resto del gruppo nei confronti di Nairo Quintana? Perché si legge da tutte le parti che adesso lo attaccheranno in maniera spietata, primo. E secondo, l'impresa di Quintana, la tappa di ieri, l'esito della tappa di ieri, la classifica attuale generale del Giro d'Italia è ancora sub iudice? Cioè tutto questo è sub iudice o è legge scritta? Allora, andiamo per ordine. La prima domanda, nel gruppo logico che Sergio Nairo Quintana non ha ormai amici e sicuramente lo attaccheranno, devo dire che però è interesse anche di Quintana a questo punto mettere un bel sigillone nelle prossime tappe, perché se arriverà a Trieste maglia rosa ma giocando solo sulla difensiva e facendo melina, allora veramente tutti noi ci ricorderemo della tappa dello Stelvio e della discesa. Sì. Credo che invece Quintana farà di tutto per dimostrare al mondo intero che lui è lo scalatore più forte del mondo ed è lo scalatore più forte di questo Giro d'Italia, e lo vincerà probabilmente con merito. Sì. Cosa diranno i giudici? Intanto questa mattina intorno alle 11 c'è stata una riunione di tutti i direttori sportivi e team manager delle squadre partecipanti al Giro d'Italia, una riunione che è durata una 40 di minuti. Poi dopo c'è stato il portavoce dei corridori, del direttore delle squadre, dei team, che si è incontrato in separata sede con il collegio di giuria e il direttore del Giro d'Italia, Mauro Veni, al quale ha comunicato il senso e il contenuto della riunione di questa mattina. Solo questa sera sapremo cosa hanno deciso. Con ogni probabilità le squadre hanno avanzato delle proposte, sembra che abbiano lasciamo la vittoria a Quintana, ma annulliamo tutti i tempi e tutti gli stacchi. Quindi cioè, togliamogli la maglia, gli lasciamo la vittoria e gli togliamo la maglia. Esatto, e torniamo ai tempi. Altri pare che abbiano invece proposto: lasciamogli la tappa, ma prendiamo i tempi e gli stacchi sul Gran Premio della Montagna dello Stelvio. Quindi Quintana è arrivato con Mike, Nicola Roche, con Fabio Aru e tutti gli altri, quindi è quasi come ritornare al giorno precedente. Quindi annullare la tappa post mortem, cioè annullare la tappa con effetto differito. Quindi tutto questo è ancora sub iudice, tutto questo verrà deciso questa sera. Credo che non decideranno prima delle 19. dopo l'arrivo della Veneto. Quindi rimane, allora, rimane attualmente 14:25 di oggi la maglia rosa che viene portata sulle strade del Giro d'Italia Nero Quintana è subiudice. Questo è il senso di ciò che sta accadendo. Perfetto, grazie per Augusto Stagi, naturalmente. Grazie a te, ci Carlo, sentiamo, ci sentiamo all'occorrenza e in ogni momento in cui ci sarà una qualche notizia. Marco da Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Allora, io ieri sera ho ascoltato e visto la tappa. Perché dico ascoltato? Perché la RAI ha fatto sentire bene la comunicazione di Radio Corsa dall'ammiraglia, non mi ricordo più di quale direttore sportivo. E lì si diceva chiaramente che c'erano le moto che dovevano insomma fare in modo appunto insomma che i corridori non prendessero la discesa troppo pericolosa, insomma, però di neutralizzazione non si parlava assolutamente. Appunto. E questo, e io a me dispiace che un tweet che la tecnologia possa creare tutta questa confusione, perché sarebbe come se io, squadra di calcio, mi fermassi perché vedo uno che crede in fuorigioco dello stadio e non da un giudice o da un'informazione ufficiale. Io faccio questo paragone, cioè la formazione ufficiale è Radio Corsa. Appunto. Dice Radio Corsa, dice questo, e dovresti stare a quello che dice Radio Corsa. Sì, dovresti stare a quello che dice Radio Corsa, però come abbiamo sentito prima, abbiamo sentito Piero Augusto Stagi che ha riepilogato quali sono le procedure, che sono procedure precise. Questa storia del safety bike è un'invenzione sperimentata in questo Giro d'Italia. Il fatto stesso che la giuria non abbia preso subito dopo la tappa delle decisioni immediate, non sia intervenuta per tempo anche nel corso della tappa, quando avrebbe dovuto farlo in caso di necessità, vuol dire semplicemente che qualcuno stava dormendo. Quindi questo è il senso. Quintana ha fatto la sua corsa, ha fatto quello che i corridori fanno. La giuria ha creato il casino all'interno degli inseguitori, all'interno delle altre squadre, del gruppo, e quindi il casino non è imputabile certamente a Quintana, nemmeno a tutti gli altri che stavano inseguendo, era la giuria, cioè l'arbitro, che doveva intervenire e risolvere la questione in corso d'opera secondo le procedure previste e i regolamenti previsti. Ripeto, adesso ce l'hanno tutti con Quintana. Io dico che lui ha fatto il corridore e ha fatto una grandissima impresa, punto. Se gli altri dormivano, se qualcuno dormiva, non è certo colpa sua. Daniele Parma, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, alcune puntualizzazioni. Le comunicazioni di Radio Corsa in realtà sono due, ed è molto interessante la prima. Io l'ho sentita dal sito del Corriere e si dicono delle cose che secondo me sono allucinanti. Cioè, Radio Corsa dice: ok, allora se c'è pericolo mettiamo queste moto davanti ai gruppettini, come se fossero controllabili, tra l'altro, i gruppettini. Loro, come dicevi tu, fanno di mestiere, vanno giù, vanno forte. E rischiano loro, ragazzi. Una moto davanti è un pericolo, punto primo, poi dopo ci torniamo. Ma Radio Corsa, la prima comunicazione, dice: verranno messe davanti delle moto con bandierina rossa per evitare attacchi in discesa. Allora, la parola neutralizzare non c'è, ma ditemi voi cosa significa, per evitare attacchi in discesa. Poi c'è stato il tweet, discesa neutralizzata, dunque non tappa, ma la discesa neutralizzata, e poi c'è stata la famosa comunicazione di cui parlava l'ascoltatore precedente, che è quella registrata dall'ammiraglio dell'Androni, dove evidentemente avevano capito di aver fatto mezzo casino, per non dire altre cose, e dicono espressamente non si tratta di tappa neutralizzata, ma lì avevano già lasciato il cancello aperto e poi erano scappati. Dunque il casino l'hanno fatto loro, l'hanno fatto loro, ma grande. In aggiunta la moto era una sciocchezza che si sono inventati lì, non so, seduta stante, non era premeditata, dunque questo è un grandissimo errore, cioè non avevano il piano B. Allora, pensare di fare la discesa dello Stelvio in condizioni ottimali, 20 gradi con il sole, era improbabile già dai giorni precedenti. Ma questo è chiaro. O li lasci andare, perché sono corridori professionisti. O annulli la tappa, non ci sono soluzioni intermedie, perché la soluzione intermedia è per l'appunto il casino che si è venuto a creare. E in aggiunta a quelle due comunicazioni c'è pure il tweet: tappa annullata, poi rimosso con tante scuse. Dunque ditemi voi se l'uomo nero è Nero Quintana, che oggi veste una maglia rosa, ripeto, subiudice. Dopo la borsa ci colleghiamo con Pardo, andiamo su altri argomenti, ma vi aspetto, è 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Hendrix, l'inno americano lo suonava così. Pierluigi Pardo, spero tu non sia geloso. No, no. Di Stagi, di Stagi, dell'altro Pier. No, no, anzi, ho visto che è successo il Giro. Beh, quindi, un meraviglioso casino a Giro d'Italia. Senza queste cose, Giro d'Italia, così come Sanremo, ha bisogno di queste cose qui. Dai, viviamo per queste cose. Non mi ricordo quale pezzo, ho letto vari stamattina sulla tappa del Giro. Mi ricordo chi, se su Repubblica, su Gazzetta, insomma, su Repubblica, si sottolineava il fatto, poi al netto di tutte le polemiche giuste, assolute, sul doping, e diciamo l'immagine negativa che negli ultimi anni purtroppo questo sport spesso si è portato su di sé, poi in giornate come ieri, chi le vive riscopre. Certo. E si rende conto che poi al netto di tutto questo c'è una fatica mostruosa, c'è una sfida agli elementi che in certe circostanze diventa veramente... terribile, no? Il Nevischio ieri, il Gavia, insomma tutto quello che è successo alla tappa di ieri ci riconcilia col senso profondo di questo certo. sport. Lo ha scritto Eugenio Capodacqua su Repubblica, questo è stato l'attacco del pezzo di Eugenio Capodacqua su Repubblica, e tra l'altro Quintana, dicevo prima, è andato giù da quella discesa rischiando la cabeza sua e non quella degli organizzatori. Claro. E adesso c'è un ascoltatore che mi scrive: la camiseta rosada no se toca. Questo mi scrive un ascoltatore via SMS, però Repubblica, in americano poi spieghiamo perché, naturalmente perché gli americani ci stanno colonizzando il nostro calcio, dopo il Colosseo si sono presi anche il mare di Sardegna, vabbè, questo ne parliamo dopo, perché, Pardo, io voglio proporti una cosa, dato che Repubblica è proprietaria del cartellino di Crosetti, però noi, è tuo ospite fisso a Tiki Taka, è il mio convocato preferito, ce lo giochiamo alle buste? Ah certo, adesso c'è il problema della comproprietà, non verranno più fatte. Vabbè, io offro. Non puoi dirlo, scrivi, metti in una busta e poi quando tornerà il signor Piantanida aprirà le buste. Okay. Va bene, ok. Intanto io l'ho convocato. Ciao Maurizio. Ecco, esco dalla busta e vi saluto. Ma tu la tua preferenza qual è? Vuoi andare a Tiki Taka, vennero tutti convocati? Beh, io voglio andare da chi mi vuol bene, mi volete bene tutti e quindi il solito democristiano. In questo momento il solito. E poi dicono di Renzi, che è la DC, ma è così. Sono un neo DC. Senti, quindi il tuo commento prima di andare sulle buste, sul pallone, su Inzaghi, su chi sarà Sacchio, chi sarà il suo assistente, tutti questi begli argomenti, la tua posizione sulla camiseta rosata non si tocca qual è? Sì, sono d'accordo, non si tocca, anche perché era da un sacco di tempo che non vedevo un corridore scavare un abisso così notevole in salita, non in discesa, poi certo forse... ne ha approfittato, forse è stato fortunato, però insomma la tappa lui l'ha costruita salendo, non scendendo, e Quintana è un corridore che vincerà molto, un giorno lo vedremo sicuramente primo al Tour, è già stato secondo, vincerà questo giro e ne vincerà altri, un corridore antico, strano, scolpito nel legno, un fenomeno, un grande corridore. Invece, tornando all'in americano, Pierluigi, io e te ne abbiamo parlato tante volte, no? Delle bellezze italiane che fanno gola agli stranieri. Cellino vende il Cagliari alla fine agli americani, a Dan Mace, e poi dice: felicissimo, Dio li benedica, ora saranno loro a lottare con la burocrazia. Sì. Mica male, dopo il Colosseo si pigliano il mare di Sardegna. Beh, c'è una serie di verità, insomma, al di là del fatto che non è che tutte le cose Cellino le abbia fatte bene in questi anni, probabilmente, no. Ecco. Però insomma che negli ultimi anni il Cagliari ha avuto dei problemi con la burocrazia enormi, di cui la prima vittima sono stati i tifosi del Cagliari, poi ci mettiamo ovviamente anche i giocatori del Cagliari e poi ci mettiamo anche Cellino, che comunque con questo tipo di burocrazia ha dovuto fare i conti, e questo è evidente, insomma, questo è evidente, ma io non trovo nulla di, in questo mondo qui non trovo nulla di drammatico o di negativo nell'essere in vendita, tutto in vendita, tutto si vende e tutto si compra, quindi l'idea anzi che ci siano gli imprenditori stranieri che vengono a comprare squadre italiane è un'idea che secondo me ci deve inorgoglire. Poi c'è sicuramente un elemento legato alla bellezza del nostro sì. paese. Io l'altro giorno ero sotto Sauvignon, sì. ma, delicatamente, insomma, una bottiglia in due, ed ero circondato da un tavolo di tedeschi e un tavolo di americani, quindi due tavoli diversi, e la gente impazzisce. Cioè, noi certe cose che diamo per scontate sulla qualità della vita, sul senso della bellezza che c'è nel nostro paese, poi appena becchi tre tedeschi a cena che stanno lì, o 5-6 americani, capisci, con tutto rispetto per le loro cucine, per carità, ma poi si sopravvive ovunque, o con tutto rispetto per i loro panorami, allora capisci che noi abbiamo veramente qualcosa di unico, e credo che questo sia uno dei motivi che ha spinto degli americani a Roma prima e adesso degli americani in Sardegna, certamente, ma io credo oggi, con buona pace oggi di la tutti, Roma, in un evento al quale parteciperò anch'io, oggi la Roma svela la maglia Nike, sì. è una rivoluzione enorme, insomma, no? Sì. Con tutto il rispetto ovviamente per altri marchi, ma insomma è una dimensione internazionale che di un certo tipo, che significa la possibilità di competere in un certo tipo di mercati, e l'asset fondamentale, come direbbe Benazzo, della Roma fino a due anni fa era il nome, il nome, sì. ancora più della storia dei trofei che ci sono stati e della passione dei tifosi che è assolutamente clamorosa, ma è il nome. Ma no, ma cioè, chiaro, una è chiaro. Una squadra che si chiama Roma, o brand... una squadra che si chiama Cagliari e che ti dà la possibilità di giocare alla Serie A davanti a uno dei mari più belli del mondo. Sì, indubbiamente ha un fascino mostruoso anche per gli investitori stranieri, ma trovo che tutto questo sia pertinente, legittimo, corretto e pure bello, se me lo consentite, Maurizio. Sì, è così. Se non diventa un colossale marchettone, spesso lo sport lo è, però bisogna anche distinguere, non bisogna anche essere talebani, nel senso che si possono fare i marchettoni e si possono fare anche investimenti, si può spingere nella direzione giusta per, come dire, per il bene dello sport, per del vivaio, degli investimenti, e comunque guadagnare dei soldi, cioè non bisogna demonizzare per guadagnare dei soldi, l'importante è che non sia l'unico obiettivo su questo. Anche questo è un po' democristiano, oggi sono davvero prima un po' di più, adesso un po' di meno, hai detto, però cose sacrosante secondo me, cioè il denaro comunque non va demonizzato, non c'è niente di male. Il piano sociale adesso. Sì, adesso si sta evolvendo. Sentiamo cosa dice invece sulle buste. Voglio sentire cosa dice Crosetti sulla storia dell'abolizione delle buste, che a me mancheranno da morire, perché non ci resta davvero più nulla di segreto. Guardiamo sotto le gonne del calcio in ogni istante. Ci hanno tolto le ultime mutandine. Ci hanno tolto più che altro il ricordo di alcune buste, vabbè, da Paolo Rossi in giù, però se dobbiamo essere poi alla fine più analitici, oggi di comproprietà, a parte tre o quattro grandi casi, rimangono Immobile, Quadrado, Candreva, ok, però è un mercato in cui non si compra più molto, e quindi non si compra più né da soli né con gli altri, più che altro ci si scambiano prestiti o si va a cercare i giocatori in scadenza di contratto, cioè si danno un sacco di soldi per gli stipendi, i calciatori, i procuratori, e molto meno alle altre società, perché è l'unico modo per potersi prendere dei giocatori di nome, no? Questo almeno in Italia, quindi di fatto le comproprietà funzionavano soprattutto tra grandi club e club più piccoli, per i quali erano effettivamente un bel sostentamento, no? Per il premio di valorizzazione, il grande club di fatto pagava lo stipendio del giocatore al piccolo club, del giocatore in comproprietà, e lo vedeva valorizzato, perché un grande club non è che può far giocare 50 giocatori, mentre poteva smistarne un po' in comproprietà senza rischiare poi col prezzo di perderli. Quindi diciamo che di fatto già non c'era quasi più la comproprietà, è più un ricordo romantico, una suggestione, e poi è un divertimento nel ricordare quando davvero si giocava a poker con le buste chiuse per cercare di capire cosa ci fosse scritto dentro. Sì, via Luisa, adesso è diventato cinico, Crosetti. Siamo cristiano per tutto il collegamento. Una vena di cinismo. Ho notato una vena di cinismo. Sì, di fatto non c'erano più, era un ricordo. Anche molto realismo. Sì, io francamente non riesco a essere. Non mi sento una vedova delle proprietà. No, io penso che insomma, questo invece rientra in un'ottica di semplificazione. ci sono delle cose, secondo me, tu non puoi impedire che il mercato domini, ce lo siamo resi conto, cioè, il mercato domina, è ovunque, è quelli che fanno le battaglie contro il merchandising, o, cioè, assurde, no? Contro il calcio moderno, mi sembra francamente una battaglia persa in partenza. Totale retroguardia. Sì, no, delle cose un po' cervellotiche, un po' tipo, per esempio, se non è un abominio assoluto, sono, ma anche quello è molto difficile da togliere, sono quei cartellini di giocatori che sono venuti non da società vere e proprie di calcio, ma da fondi di investimento. No, fondi di investimento che si compra il 40% di Tizio piuttosto che l'80%. Ecco, quelle robe lì mi sembrano robe molto cervellotiche, molto complicate e molto, molto poco in linea con lo spirito del gioco, no? Che è il fatto che tu sei un calciatore di una squadra di calcio, quello ti vende, ti compra un'altra. Quindi questo mi sembra che vada in quella direzione lì, cioè comunque le comproprietà erano una forma, diciamo, di complicazione. Che io francamente sono abbastanza contento. Sì. Sono abbastanza, poi non è che cambia, non è che il calcio moderno adesso si scredola, perché non c'è, ma anche è chiaro che adesso, al di là del gioco e dello scherzo, è chiaro che l'espressione più efficace è quella usata dal solito Maurizio Cosetti su Repubblica: smettiamo di spaccare un giocatore in due come un'albicocca, perché questo, esatto, è un po' fuori dai tempi e anche dalla logica normale del calcio e penso anche del mondo degli affari. Ci vediamo un attimo per il traffico, ragazzi, ma subito dopo torniamo, anche perché mi interessa la vostra sull'evoluzione del tormentone di questi giorni, quello relativo al Milan. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo e Maurizio Crosetti, ultime evoluzioni della telenovela Seedorf Milan Inzaghi. Inzaghi è l'allenatore del Milan e questo lo sappiamo tutti. Si sta trattando il divorzio prima di dare l'annuncio ufficiale. Seedorf vuole tutti i suoi maledetti 10 milioni di euro, secondo me fa benissimo. Il vero punto, mi pare, a questo punto è diventato quello di chi accompagnerà Inzaghi nel tempio. Se Tassotti, che potrebbe anche restare, perché si sta tentando di convincere Tassotti a restare, o Filippo Galli, che Inzaghi vorrebbe con sé perché è il suo nome tutelare. Poi c'è questa voce: Arrigo Sacchi alla guida del settore giovanile del Milan. Che effetto vi fa, Maurizio? È bello. È bello. Il nome Sacchi accostato al nome Milan non può che fare un effetto da un lato nostalgico e dall'altro, come dire, di morte sua, no? Nel senso, no, tra virgolette. Come fai a non pensare, come dire Boniperti, pensi alla Juve, se dici, sì, Sacchi pensi al Milan, se dici Strampaccioni pensi all'Inter, cioè, i tre grandi nomi, diciamo, della storia di questi tre. Ma così ti voglio, meno democristiano, ma così ti voglio. Anche perché Strampaccioni, non è che lo butto lì per caso, perché Strampaccioni non ha insegnato niente al Milan, Ferrara non ha insegnato niente al Milan, Seedorf non ha insegnato niente al Milan, cioè sostanzialmente assumere un non allenatore non ha insegnato niente al Milan. Ti piace la Guardiola? Mica male. Guardiola ha insegnato qualche cosa al Barcellona, sì, ogni tanto, anche Montella, anche Mancini, no, lo so Pier, ci sono anche giocatori che saltano immediatamente dal campo alla panchina, quasi, addirittura Mancini, mi ricordo, ce n'è. Molti non ridirono perché non aveva il patentino, perché sembrava un raccomandato, e guarda che carriera che ha fatto. Però certo, ultimamente, giusto due minuti di gavetta, cinque settimane di mestiere, no? in un mondo in cui spara col Saturno 5 in orbita chiunque, salvo poi cascare giù dopo tre minuti senza paracadute, perché Seedorf si sarà pentito mille volte. Oddio, con 10 milioni di euro forse l'avrei fatto anch'io, andato al Milan. Però insomma, si sarà pentito forse di questa carriera che rischia di essere incenerita di fatto. Questa è una bella lettura, caro Pardo. Crosetti ha riposto lo scudo bianco crociato. Sicuramente ha riposto lo scudo bianco crociato. Penso che sia, come diciamo ieri, insomma, una dimostrazione che qualcosa non è andato, insomma, il fatto che si diano adesso 700 mila euro in Zaghi, che poteva arrivare 5 mesi fa, nel frattempo forse bisognerà dare 10 milioni a Seedorf, o comunque una questione degli avvocati, mi pare abbastanza evidente che qualcosa non abbia funzionato. Certamente la carriera di Seedorf parte molto male, non credo sia ridimensionata in assoluto, ma parte molto male, però parte probabilmente anche con 10 milioni, per cui insomma alla fine se ne farà una ragione. Su Sacchi, sono modi peggiori. Su Sacchi? Io lo adoro, insomma, io credo che chiunque ha avuto modo di conoscerlo, insomma è una leggenda, veramente una leggenda, ha una serie di letture che sono sempre comunque originali, sempre comunque importanti, crede nell'organizzazione e nel Milan di oggi credo che ci sia molto bisogno di organizzazione, lo dico con rispetto, ma insomma credo che negli ultimi tempi la programmazione sia stata lasciata alle spalle, no? E quindi probabilmente questo tipo di scelta va nella direzione giusta. Su Inzaghi, come dicevamo ieri, dobbiamo fare anche in go, no? Tipo la conta, perché ci sono stati degli esempi sicuramente poco positivi come quelli che ricordava Maurizio, ma ci sono stati anche dei predestinati che hanno cominciato delle carriere clamorose. Io mi aspetto l'entusiasmo che c'era la Juve nel famoso ritiro del 2011 a Bardonecchia, quando Conte prese possesso della squadra. È vero che Conte aveva già alle spalle comunque delle esperienze di gavetta vere e positive, come quelle che ha vissuto ad Arezzo, a Bari, anche a Bergamo, esperienza negativa, però comunque formativa. E qui siamo di fronte a un debutto assoluto, per cui insomma. Però sai, il Milan è promotion from within, la promozione dall'interno, c'è questa. Questo è molto difficile che il Milan vada a prendere allenatori. No, ma allenatori di famiglia. Un'ultima battuta da entrambi, secca. Qual è il rischio più grande per Inzaghi nel gestire questo tipo di rosa? Qual è il rischio più grande che corre Inzaghi? Avrà un credito che non è illimitato, ma qual è il rischio più grande, Maurizio? Andare in fuorigioco e questa volta farselo fischiare, cadere in area e non prendere rigore. Pierre. Vabbè, mi arrendo, dai, non sì. Di Grosetti su, che dobbiamo... sulle mani, esatto. Finire in fuorigioco e stavolta farselo fischiare, vi adoro. Ciao Pierluigi, ciao Maurizio. Ciao. 800 24 00 24, numero verde, adesso. Oh mio Dio, adesso abbiamo dei bottoni che si schiacciano senza volerlo. No, adesso abbiamo l'appuntamento, il Bet Corner, prima del GR, poi torniamo insieme. Ovviamente vi aspetto sempre su questi argomenti, sul Giro d'Italia, su tutto quello che volete, perché è inutile che mi scriviate messaggi, ma perché non si parla di questo, perché non si parla di quello, ma fatelo voi, no? Come dico tutte le volte, 800 24 00 24, questa è la chiave per parlare di quello che vi pare. Compreso, caro Juan da Roma, di basket, di cui ovviamente parleremo tra poco perché è in scaletta. Sentiamo dopo. Quote e pronostici. Questa sera alle 20.30 al Palaestra di Siena va in scena gara 5 per i playoff di Serie A di basket. I padroni di casa, dopo aver espugnato Reggio Emilia in gara 4, provano a completare la rimonta davanti al pubblico amico. E allora vediamo quali sono le quote sniper per questa partita. L'1, la vittoria di Siena, è quotata a 1.83, l'X è a 2.85, il 2 invece è quotato 5. Venerdì sera si gioca l'ultima giornata in Serie B, la 42esima fatica di questo bellissimo campionato, con la sfida di stanza per la promozione diretta in Serie A, e attorno alle 22.30 sapremo chi tra Empoli e Latina farà compagnia al Palermo in Serie A. Per l'altra saranno playoff, Empoli secondo in classifica che riceve il Pescara, l'1 è quotato 1.45, l'X è a 2.60, il 2 invece è quotato 16, Latina invece terzo a 2 punti dall'Empoli che riceve lo Spezia che ancora punta ai playoff, l'1 è a 2.80, l'X è quotato 3.10, il 2 invece è quotato 2.45. Questa era l'ultima delle quote di oggi, a risentirci domani. Tutti convocati. È partita forte qui al Forum di Assago. Wanamaker per Washington che firma il 7-0 di Pistoia. La tripla del gaucho argentino fa esplodere il Forum. Milano torna avanti, parziale di 10-0. Il primo tempo finisce con Pistoia avanti di 1 proprio sulla tripla messa a segno da Cortese. Lanford in transizione, non si prende la tripla, va nell'angolo da Moss. Gentile era già in fondo, sapendo che la tripla del suo compagno sarebbe entrata. Milano a chiuso. 100 secondi a fine terzo periodo, Moss va per il 4-4, lo concretizza, 12 nella sua gara, tutti arrivati con le triple. Al massimo vantaggio le ha 7, 61-50, 90 secondi dalla fine del terzo quarto. E Milano firma il più 13, probabilmente a questo punto decisivo, a poco meno di 42 secondi dalla fine. Pistoia va sotto di 10, Milano vince e raggiunge il banco in semifinale. Dunque playoff del basket, mentre Roma asfalta Cantù e Sassari stende Brindisi, 3-0 per tutte e due, la prima e la seconda del nostro campionato se la giocano alla morte alla quinta partita, stasera Siena contro Reggio Emilia, ma soprattutto l'Armani Jazz Milano che elimina Pistoia alla quinta dopo aver visto mille streghe. Luca Banchi, coach di Milano, buongiorno. Buongiorno. C'erano le streghe? No, io non ho visto manco mezza. No. Però sulla carta, Milano che arriva alla quinta con Pistoia e tanta roba. Io sono abituato bene, vengo da 7 scudetti consecutivi. Appunto. L'anno scorso ho vinto lo scudetto partendo da quinto in regular season e i primi due turni li abbiamo passati vincendo gara 7 in trasferta. Quelle non sono streghe, sono cenerentole per me. Sì, capisco che il pubblico di Milano sia preoccupato e spaventato dai precedenti, ma quelle sono cenerentole. Sono cenerentole, però Siena ci aveva abituato negli ultimi anni, a parte l'anno passato, come fa bene a ricordare, ci ha abituato spesso ad arrivare da dominatrice, come sembrava quest'anno Milano, e ad asfaltare tutti. No, c'è un errore di fondo. Quelle erano squadre che costruivano su una mentalità vincente che era diventata modalità nel tempo. E questa invece è una squadra che ha poco vissuto assieme, una realtà che vive il peso di 19 anni senza alzare trofei. Fare delle analogie è controproducente e inopportuno. Questa è una squadra che deve imparare a vincere, e non è semplice farlo quando tutti attorno lavorano per far crescere quell'attenzione di doverlo fare a tutti i costi. Quindi è un compito duro, estremamente stimolante, però io non scomoderei i confronti col passato. Sì. Quindi celebriamo il primo posto in regular season, che ci dà il diritto del fattore campo, ma purtroppo non abbiamo alle spalle un vissuto cui attingere per pensare di diventare poi una potenza. Forse il tempo lo dimostrerà, è quello che auguro a tutti. Certo. Però, l'aver vinto comunque un dentro fuori vi ha aggiunto qualcosa a Milano? Ma lo deciderà il tempo. Oggi niente, se non ci ha aggiunto un turno di playoff. Quindi andiamo per gradi, sappiamo che potremo giocare da venerdì la nostra semifinale, nient'altro. La serie col Maccabi vi ha lasciato addosso qualche scoria? Ma dal punto di vista fisico e dal punto di vista emotivo può essere, perché avevamo investito molte aspettative in questo appuntamento e è stato stremante, stressante, fantastico, però io voglio concentrarmi soltanto sul patrimonio tecnico che lascia, cioè aver dimostrato una volta di più di essere in grado di competere ai massimi livelli con quella squadra che poi è stata capace di vincere il titolo continentale. Noi siamo stati in grado di giocare 4 partite di alto profilo, e quindi quando e se ho parlato alla squadra l'ho fatto soltanto per rimarcare questo aspetto. Poi spero di avere il tempo e la possibilità di poter lavorare anche sul vissuto di errori che non dovremo più ripetere. Coach, un'ultima cosa ed è una domanda più generale, una considerazione più generale. Spesso sentiamo parlare nel basket, ma nel calcio soprattutto, ma anche nella pallacanestro, di un campionato italiano poco competitivo, poco allenante, di bassa qualità. Il fatto che prima e seconda, dicevo prima, Milano e Siena, vadano a giocarsi la bella contro rispettivamente Pistoia ottava e Reggio Emilia settima in regular season, vuol dire qualcosa o è semplicemente la follia la meravigliosa follia dei playoff? Ma no, è la logica di un momento di stagione nel quale i valori inevitabilmente si assottigliano. Ho detto, lo scorso anno con Siena siamo stati capaci di chiudere quinti in regular season e poi vincere lo scudetto, quindi è già un precedente che dimostra, una volta scomparso lo strapotere senese dei 6 anni precedenti, dove oggettivamente quelle squadre per struttura, organizzazione di gioco ed esperienza, quella squadre sembravano irraggiungibili e anche irripetibili, Poi adesso le stagioni bene o male vivono sull'equilibrio. Questi playoff stanno dimostrando una volta di più che sarà difficile fare dei pronostici. Il campionato non lo ritengo di basso profilo, lo ritengo molto impegnativo, allenante, soprattutto le gare in trasferta sono particolarmente complicate, squadre sono molto ben organizzate e ben allenate, e fare dei confronti a livello continentale diventa anche ingeneroso, certo. Perché poi campioni d'Europa negli ultimi 3 anni sono state 2 volte l'Olympiakos e certo. Una volta il Maccabi, e non venitemi a dire che il campionato greco, il campionato certo, israeliano certo. Allenino queste squadre all'Europa. No, ma io sono contro questi luoghi comuni, secondo me sono luoghi comuni. Questi campionati permettono a certe squadre di riposarsi in previsione dell'Eurolega. Secondo me dobbiamo lavorare su altri aspetti che sono legati al prodotto del nostro campionato, impianti migliori, più sicurezza e uno spettacolo migliore offerto anche a chi usufruisce dell'evento, come detto, con un'impiantistica adeguata, con eventi collaterali, situazioni dove altre leghe come la Germania ad esempio stanno facendo passi da gigante e non è un caso che i loro impianti siano sempre tutti esauriti. Sì, intanto comunque con secondo me Milano-Sassari sul campo, non so intorno, ma sul campo profuma di grande spettacolo. Ma non lo so, sicuramente troviamo gli avversari tra virgolette peggiori che potessero capitarci. È una squadra di grandissime potenzialità, molto spettacolare e anche efficace, ha dimostrato in Coppa Italia di farsi trovare pronta negli appuntamenti che contano. Sicuro. E loro sanno quanto questa semifinale conterà, godono anche del vantaggio di aver chiuso anticipatamente la loro serie contro Brindisi, quindi troviamo una squadra in grande salute e molto tarata per questo impegno, però sapevamo che tra noi e l'obiettivo finale che abbiamo ci saranno sempre squadre agguerritissime, lo è stato Pistoia, figuriamoci se non lo si dimostrerà Sassari. Grazie coach, buon lavoro. Prego, buona grazie. Giornata a tutti, arrivederci. Grazie Luca Banchi, coach dell'Armani Milano, Emporio Armani Milano, 800 24 00 24. Parliamo con gli ascoltatori. Valerio Palermo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Ma grazie a lei. Allora, volevo parlare ovviamente del genere del fatto di questa vicenda. Sì. Premetto che non sono, che seguo solo saltuariamente il ciclismo e le vicende, sono l'ultima tappa, le ho solo sapute tramite media vari. Io penso che certe novità sono potrebbero essere utili, cioè, questi, insomma, come safety bike eccetera, utili se utilizzati in maniera chiara e precisa. Faccio un esempio col calcio della segnalazione del tempino di recupero. Sì. Si sa che funziona quello perché c'è comunicazione al quarto uomo, quarto uomo, alza il cartello, 4 minuti di recupero, sono quelli. È chiaro. Se in questo caso ci fosse quarto uomo, alza il cartello, c'è 4 minuti, lo speaker dello stadio ne dice 5. E poi qualcuno manda un tweet che esatto, un tweet alla Lega Calcio che dice invece mancano 8, no, diventa un grandissimo casino. Ora Valerio, il paragone mi sembra un po' tirato, si può fare con la Formula 1, principalmente con la Formula 1 perché sappiamo che le safety car vengono utilizzate lì, però ci sono dei regolamenti, delle procedure precise e non può essere un tweet a sconvolgere il Giro d'Italia, perché il tweet dai regolamenti dell'UCI, dell'Unione Ciclistica Internazionale, non è previsto, non è uno strumento previsto, quindi da chiarire da chi sia partito, come sia partito e perché, per come, per quando, però non può essere un tweet in una corsa ciclistica, men che meno in una corsa ciclistica del livello del Giro d'Italia, a creare questo tipo di scompiglio. Poi ci sono le due segnalazioni di Radio Corsa, sono lì da sentire, le trovate dove volete. In nessuna delle due si parla di annullamento della tappa e dunque è stato semplicemente un gran pasticcio, è stata semplicemente una grandissima confusione e non si può dire la colpa di quello che è successo è di quel demonio di Quintana che non ha rispettato le segnalazioni. Anche questa storia delle safety bike è un'invenzione non regolamentata, non prevista dai regolamenti dell'Unione Ciclistica Internazionale, che è stata introdotta, diciamo così, in via sperimentale in questo Giro d'Italia. Non mi sembra la sede più opportuna per fare un esperimento di questo tipo. Alberto, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Io vorrei tornare al calcio. Torni dove vuole, tra un po' sentiamo anche Buffon che ha parlato. Dica. Ma non riesco a capire cosa si aspettava il Milan da Seedorf l'anno scorso, e mantenendo una rosa poco competitiva, cosa si aspetta da Inzaghi il prossimo anno. Dire, se la materia prima è questa, credo che i risultati saranno gli stessi più o meno. Beh, però Alberto, è evidente, lei lo sa come me, che il licenziamento di Seedorf non è legato ai risultati, perché altrimenti non è spiegabile. Cioè Seedorf ha fatto più o meno quello che dovevo, che poteva sul campo, cioè come punti conquistati. Gli si chiedeva l'Europa League, ma secondo me era quasi più una richiesta di facciata, anche perché non sono così convinto che ad un Milan in fase di ricostruzione servissero poi più di tanto dei lunghi preliminari di Europa League, quindi secondo me può essere più una motivazione di facciata. Sul campo Seedorf ha fatto più o meno quello che doveva, ha condotto in porto un dignitoso finale di stagione a livello di punti, sebbene con distacchi abissali è stato quello che ha fatto meglio dopo Juventus e Milan nel periodo in cui ha allenato, ovviamente parametrato al periodo in cui ha allenato. Poi per il resto è evidente che il licenziamento di Seedorf ha tutt'altre ragioni, che sono realisticamente da ricondurre ad una squadra che si è disgregata, perché non ha capito, non ha gradito i modi di allenamento di Clarence Seedorf, tanto da indurre colui che lo aveva fortissimamente voluto, cioè Silvio Berlusconi, ad arrendersi di fronte all'evidenza di uno spogliatoio, di una rosa ingestibile, proprio perché il Milan non ha le risorse del passato. Un tempo forse Berlusconi avrebbe detto: ah, bene, questo l'ho deciso, lo difendo fino alla morte, chi non ci sta va via, quindi vendo metà squadra, ne compro un'altra metà, faccio la squadra che vuole Seedorf e non mi rompete le scatole e vado avanti così. È un altro segno di tempi che sono cambiati per il Milan. Gabriel, Roma, buongiorno. A tutti. Una cortesia. Allora, io mi dicevo, devo tornare sulla parte. Provo. Allora, il discorso è questo, che io purtroppo ho sentito le parole di Banchi e non mi trovano d'accordo. In primo luogo perché comunque il campionato italiano, si voglia o non si voglia, almeno rappresenta, è rappresentato da 6-7 squadre che possono ancora... Gabriele, facciamo una fatica pazzesca a sentirla, quindi non riesco a capire il senso della comunicazione. Magari ci riproviamo, magari proviamo a ristabilire il collegamento terra-luna. Riccardo, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno, sì, Riccardo. Buongiorno. Buongiorno signor Carlo, buongiorno, grazie signor Riccardo di essere stato convocato. Io volevo parlare un po' del futuro di Carlo Ancelotti. Sì. Perché ma mi sono fatto una fantasia dopo la sua frase un po' sibillina dopo la finale, sono pronto a tutto. E se Remy da Berlusconi, io premetto sono sampdoriano sfegatato e dopo Mantovani e Zio Guja non c'era più niente, però Berlusconi per il Milan è stato un remida, dove ha toccato ha sempre ottenuto risultati. Più o meno. Ultimamente un po' no. E io non sono d'accordo sull'allontanamento eventuale di Seedorf, anche egli un ex andoriano. No, ma eventuale, Riccardo, è certo, non ci sono periodi ipotetici. Seedorf è già stato licenziato, si sta trattando sugli alimenti. Ecco, sì, stavo dicendo, sì, no, è come un sogno, nel senso non volevo, però so che Inzaghi ormai è lì alla porta. È l'allenatore del Milan, sì. Esatto, ma se il signor Berlusconi avesse fatto una telefonata a Carletto chiedendogli una sorpresa? No, ma l'ha escluso. No, ma non no way, cioè nel senso che molti dicevano, ma se Ancelotti non dovesse vincere la Coppa, ma anche in quel caso non sarebbe arrivato, cioè secondo, ma l'ha detto lo stesso Ancelotti, non lo sto dicendo io, l'abbiamo sentito ieri in certe sue dichiarazioni dire: non sarei tornato nemmeno in quella situazione, sto qui per molti anni e comunque adesso che l'ho vinta ha maggior ragione, però non, secondo me era una possibilità piuttosto campata per aria, cioè questa era una suggestione, anche perché per molte ragioni. Ancelotti ha un contratto pesantissimo, non vedo perché, al di là dell'affetto, pur sempre un professionista, però non vedo il motivo per tornare in questo momento da top coach, da allenatore sulla cresta dell'onda, in un Milan che è in fase di ricostruzione, ma non si sa nemmeno quanto tempo ci vorrà per questa ricostruzione e quanti denari potranno essere realisticamente spesi. Cioè, secondo me era pura fiction quella di Ancelotti, quindi era una soluzione impraticabile, adesso a maggior ragione, poi smentito in maniera secca e diretta dallo stesso interessato che su questi argomenti normalmente Dybala non ne racconta, quindi rimarrà una fantasia notturna la sua paura, mio caro. Grazie, Riccardo. Un saluto anche a Pardo, grazie. Cioè, non mancherò, miei rispetti, grazie Riccardo. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Volevo intervenire sull'intervista fatta poc'anzi all'allenatore Banchi dell'A7 Milano, che mi ha lasciato un po' perplesso, perché mi ha ricordato parecchi punti che a metà del periodo Scariolo stesso esprimeva sulla squadra, e quindi mi sembra che anche a Banchi tipo che la squadra deve crescere, deve mantenere la concentrazione per vincere. Beh, ma Roberto, io non voglio difendere nessuno, cioè, allora, il mio punto, il mio pensiero, la mia posizione è questa, ma l'ho detta mille volte: se Milano non vince questo scudetto, considerato quello che ha investito, il livello della squadra, anche il livello degli avversari, se Milano non vince questo scudetto è uno dei più colossali fallimenti nella storia della pallacanestro italiana. Sul fatto che, quindi non voglio difendere nessuno, però sul fatto che debba crescere, insomma, sta nei fatti, no? Secondo me sta nei fatti, perché non si può dire compiuta una squadra che porta fino alla quinta partita una serie di questo tipo, con tutto il bene che si può volere a Pistoia, non si può dire compiuta una squadra che ha quel tipo di approccio anche nella serie con il Maccabi, perché la partita iniziale di quella serie, con praticamente una gara buttata via dopo che l'avevi vinta già 10 volte, non è il segno di una squadra compiuta e matura. Non può essere compiuta e matura una squadra che gioca le Final Eight di Coppa Italia in casa e viene eliminata al primo turno. Un anno fa era diventato il capo espiatorio Scariolo, come se dicesse delle fantasie sue. Sì. Quindi la cosa mi lascia un po' perplesso, perché adesso effettivamente le responsabilità passano sulla squadra e quindi i giocatori. Un anno e mezzo fa, di fronte a una situazione sicuramente peggiore di quella di oggi, però simile, con molte analogie, il tutto è stato scaricato su Scariolo, sì, che sicuramente ha pagato il fatto di essere stato troppi anni lontano dall'Italia, e quindi non mancava chiamiamolo così, dell'eleganza di esprimersi in un certo modo, no, senza pensare a troppi piedi. No, ma non credo. Allora, Roberto, il discorso è che Scariolo non è di... Non può essere messo in discussione come allenatore, cioè, è un grandissimo allenatore, uno dei più bravi allenatori d'Europa, però capita, a Milano non ha fatto bene, questo è innegabile. Poi alla fine si fa una riga e si vede come andrà a finire. A mio parere Milano finirà per vincere questo scudetto, quindi il risultato verrà acquisito. Scariolo nella sua esperienza milanese non ha ottenuto buoni risultati, questo mi sembra abbastanza innegabile, no. Raffaele, Roma, buongiorno. Buongiorno, che bello essere convocati finalmente. Che bello anche per me. Sono contento. Dica. Rapidamente, ho un paio di cose da chiedere. Allora, ma nessuno parla di questo Romulo convocato in nazionale, che personalmente... Cioè, non lo so, mi sembra un po' una cosa campata un po' in aria. Perché? Io seguo un po' il calcio, però insomma non capisco questa convocazione, che poi non è neanche messa in discussione, mentre invece viene messo fuori Verratti, per esempio. Sì. Vabbè, poi altra cosa, non vi rubo troppo tempo perché poi devo andare al lavoro, quindi vi ascolterò per radio la risposta. Bisogna correre, sì. Ok, e poi il ciclismo, ha perfettamente ragione, io sono d'accordo con lei, cioè quando si corre si corre, se ci sono delle regole che sono stabilite si rispettano, come ieri. Ma non si possono inventare all'ultimo momento la safety bike o queste cose qui. E su questo ha fatto punto perfettamente bene Quintana andarsene, certo, e basta. Certo. Qui si corre e basta. Beh, su questo, quello è. Raffaele, su questo secondo argomento c'è poco da discutere, perché abbiamo la stessa posizione, quindi insomma possiamo fare 0-0. Sull'argomento Romulo invece io dico che Romulo insomma è stato una delle più importanti novità del nostro campionato, ma è perfettamente eleggibile per la nazionale italiana, è stato chiamato e condivido la scelta di Prandelli, io ai mondiali me lo porterei. Su Verratti vale lo stesso discorso dello 0-0 di prima, mi porterei ovviamente anche Verratti, che è uno dei giocatori di maggior talento tra tutti quelli che abbiamo. Tutti convocati. Allora, prima di andare sulla cronaca, sentire Buffon che ha parlato oggi in conferenza stampa e aprire il capitolo mondiali azzurri, vorrei sottoporre una lettura del periodo dei mondiali. Possiamo alternarci tra la visione delle partite, in questo caso molto spesso notturna, e buone letture. C'è un libro uscito di recente il cui titolo mi ha molto incuriosito, perché è un titolo in cui sta dentro tutto. Storia dei mondiali di calcio, l'hanno scritto due illustri colleghi di Tutto Sport che ben conosco, Giovanni Tosco e Sandro Bocchio, che è con noi. Ciao Sandro. Ciao Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao. Senti, mi parli di questo titolo, Storia dei mondiali di calcio, tantissima roba, eh? Sì, perché indica un po' quella che è stata la nostra ambizione, la mia e quella di Vanni, raccontare quello che è stato il mondiale dal 1930 ad oggi, ma in un'ottica più ampia, perché la narrazione di ogni capitolo, che corrisponde a ogni edizione di un singolo mondiale, comprende anche l'aspetto storico, l'aspetto sociale, l'aspetto culturale. Nessuna ambizione di essere sociologi o storici, sì. Però può andare, tu non puoi parlare del mondiale del 34 o del 38 senza parlare dell'Italia fascista, chiaro. Non puoi parlare di quella del 78 senza parlare del regime militare in Argentina o degli 80, gli anni 80 senza raccontare cosa è stata l'evoluzione in quegli anni. Certo, quindi è storia con i mondiali di calcio che sono il filo conduttore. Esattamente, storia, perché ho rispolverato anche i miei vecchi studi, diciamo. Quindi storia, virgola, dei mondiali di calcio. Sì, esatto, poi tutto quello che comprende, perché ci sono i trionfi, le sconfitte, i personaggi delle partite. Cesare Prandelli ci ha fatto anche la cortesia di una prefazione, anche lui nei giorni con cui abbiamo parlato a Coverciano ha questa curiosità di andare a approcciare questo evento, come siamo tutti curiosi, visto quello che sta anche succedendo in Brasile, capire cosa troveremo là una volta che saremo a seguire le partite. Ma qual è il tuo mondiale? Quello che senti più tuo dal punto di vista storico, dal punto di vista emotivo? Allora, dal punto di vista emotivo l'82, perché avevo 20 anni, quindi uno è stato un mondiale che mi sono goduto appieno con gli amici, a vedere le partite al bar, andare insieme a gioire, un'avventura incredibile che sembrava dovesse finire tra le pernacchie e poi rivelatasi, grazie alla bravura di Berzot e di quella squadra straordinaria, un'impresa fantastica, perché io non mi ricordo una squadra più forte del Brasile dell'82, francamente. Io non ho visto l'Ungheria del 54 e non ho visto il Brasile di Pelé del 58, ma quel Brasile dell'82 è una squadra fantastica e poi riusciamo a batterla. Quello è stato il mondiale che mi è piaciuto in assoluto. E poi per me il 2006 è stata un'altra vittoria dell'Italia, ma è stato il mio primo inviato del mio giornale Tutto Sport, e veramente ho toccato con mano cosa vuol dire vivere il calcio in un paese dove sanno che cosa serve al calcio, quindi stadi, infrastrutture, accoglienza. È stato un mondiale, una scoperta fantastica la Germania. Poi per noi che non siamo abituati a queste cose, Sandro, che siamo abituati a girare per stadi che sembrano dei letamai, senza servizi, senza infrastrutture, esatto. Insomma, adesso esatto. Non stiamo a fare pistolotto anti-italiano, no. Perché non è il caso, però siamo abituati talmente male che quando mettiamo il naso fuori ci sembra il paradiso. Questo è il senso. Invece, secondo te, quale potrebbe essere la storia di questi mondiali? La storia di questi mondiali si lega a quello che abbiamo raccontato anche noi nel libro, nel 1950, è il mondiale in cui il Brasile deve cancellare quell'onta della sconfitta con l'Uruguay, il Maracanazo, quello che è venuto dopo, i suicidi, la maglia cambiata, non più bianca, quindi se nel paese che non ha inventato il calcio ma lo vive il calcio, sa che cos'è il calcio, quindi mi aspetto innanzitutto una grande passione popolare, un grande entusiasmo, mi aspetto grandi difficoltà a livello ambientale, anche tu penso stai seguendo con Radio 24 come cosa stanno facendo a Coverciano per affrontare le situazioni ambientali che la squadra va a incontrare, quindi la casetta Manaus e tutti i vari test, e quindi sarà un mondiale molto tecnologico da questo punto di vista, ma un mondiale profondamente umano, perché il mondiale se la potrà sempre, sono curioso di vedere al varco finalmente se grandi che al mondiale regolarmente non hanno fatto, hanno un po' toppato, penso a Rooney, penso a Messi, quest'anno farà, cioè, perché comunque tu non puoi prescindere dalla capacità del singolo, in questo, da questo punto di vista Brasile e Argentina sono attrezzatissime, e poi c'è il collettivo della Spagna che è formidabile. Sì, e io non dimenticherei la Germania che secondo me è alla maturità assoluta, cioè questa squadra che a me comunque piace da morire fin da quando vinsero quel titolo Under 21, secondo me questa squadra è al punto esatto di cottura, cioè la maturità assoluta, ed è la mia personale favorita. Poi c'è Messi che, come dici tu, ora mai più, c'è un Brasile che a me non sembra comunque meraviglioso, e ci sono le outsider più votate, più gettonate, Colombia e Belgio, quindi esatto. Mi sembra che il disegno sia questo. Te ne vendo un'altra invece, sai perché si potrebbe votare Inghilterra? Perché al di là di Oxon dici? per un puro motivo cabalistico. Allora, 1966, sì. Real Madrid campione d'Europa, Atletico, sì. Madrid campione di Spagna, sì. Betis Siviglia retrocesso, sì. Deportivo La Coruña promosso. Va bene, me la vado a giocare. È tutto uguale. Pazzesco, subito, mancano solo i Beatles, diciamo. Se va bene One Direction, non lo so. No, questa è da scomunica, Sandro Bo. Beatles e One Direction è veramente... dei figli adolescenti. E lo so, e non sei l'unico, mio caro. Un'ultima cosa, Rossi sì o Rossi no, Sandro Bocchio? Rossi sì, anche qui Vico, troneggia, bravo. Vico, un altro Rossi, bravo. Reduce da un lungo, esatto. Stop, eccetera. Rossi sì o Rossi no? Io Rossi sì, perché comunque Rossi è quello che ti dà quel qualcosa in più. A me piacerebbe vedere un attacco. I miei cinque nomi sono, non me ne vogliono gli altri, Cassano, Balotelli, Rossi, Immobile, Cerci. Immobile perché ha fatto un campionato straordinario, Cassano perché comunque si è ripreso alla grande e ti dà alternative tattiche che gli altri non ti danno, Balotelli perché comunque è forza fisica, e Immobile perché si è dimostrato attaccante completo. Giuseppe Rossi, se fa come Paolo Rossi, se usiamo questo periodo, la prima fase, per recuperarlo, è quello che ti dà maggiori garanzie di inventiva. Il problema è uno, che Paolo Rossi da recuperare da un'annata, da anni, mesi in cui non aveva giocato. Giuseppe Rossi bisogna verificarlo nel contrasto, nei movimenti di gioco, e penso quello sia ancora, lui non lo dirà mai, ma penso che in fondo sia proprio in un angolo della sua paura nascosta. Lo penso anch'io, poi se va come quell'altra volta, dopo i mondiali si aggiunge un altro capitolo, la storia dei mondiali di calcio per la seconda ristampa, quindi dillo subito a Giovanni Tosco. Assolutamente, okay. Siamo già pronti ai computer. Grande, ciao Sandro Bocchio. Grazie. Ciao, buona giornata. Allora, ve lo ricordo, nel 66 Real Madrid campione d'Europa, Atletico Madrid campione di Spagna, Betis retrocesso, Deportivo promosso e campione del mondo l'Inghilterra. Se succede ancora, succede ancora, bene, vinciamo qualche soldo magari con i bookmakers. Ivan, provincia di Lodi, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Volevo ricadere un attimino ancora sul discorso del basket in merito alle cinque gare dell'Olimpia. Sì, volentieri. Io sono del parere, e volevo sentire anche un vostro parere, se i falli tecnici fischiati all'Olimpia hanno portato a gara 5. Ultimo quello di Melli, che si è sfogato con coach Banchi, è stato interpretato come una reazione cattiva nei confronti della terna arbitrale. 6 punti di fila, sì. E secondo me rientra in gara. Però non mi sembra riduttivo il discorso, cioè una squadra come l'Armani non deve, a mio parere almeno, mettersi nella condizione di cadere per causa di episodi, no? Banchi ha anche detto però che nei playoff si assottigliano le differenze tra le squadre. Sì, certamente. Posso essere essere d'accordo, appunto, perché comunque c'è un abisso tra la società, l'organizzazione Olimpia e Pistoia. Resta il fatto che in casa di Pistoia sei punti di fila. No, ma certamente, certamente l'episodio ha avuto in quel contesto un peso specifico notevole. Quello che dico io è che per quello che abbiamo visto per buona parte della stagione, io non mi pento di aver detto un giorno dopo che ne aveva rifilati 30 al Barcellona, in questo momento, e l'ho detto avendo come ospite il presidente Armani, Livio Prodi, ho detto in questo momento, a mio parere, l'Armani è la squadra più forte d'Europa insieme al Real Madrid. L'ho detto e lo penso ancora, cioè non torno sui miei passi. Però proprio per questa ragione, poi ci sono state varie, insomma, Diacono è passata sotto quei ponti, però ciò che mi sorprende è che l'Armani si riduca, e uso questo termine non in senso disprezzativo, perché Pistoia ha fatto una grandissima stagione, un grandissimo playoff, questo è evidente, quasi inutile sottolinearlo. Però che quella squadra che non tre secoli fa, ma tre mesi fa, era secondo me la più forte d'Europa, è interessante capire come sia potuta arrivare a contare i tiri liberi, a perdere per un episodio come può essere un tecnico, una decisione arbitraria, queste cose qui, in una serie contro Pistoia, ed arrivare con le spalle al muro alla quinta partita. E questo è il punto interessante. Matteo D'Alecco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. D'Alecco al Giro d'Italia. Fantastico. Senti, hai un minuto che sentiamo il traffico? Poi parliamo con calma. Grazie. Tutti convocati. So che pensi che l'Italia sia più forte adesso. Siamo una nazionale forte, siamo una squadra forte, e poi comunque io do un apporto molto consistente con la squadra, come Pirlo, come Buffon, come altri 3 o 4 giocatori molto importanti di questa squadra. Chi è il più veloce tra i giocatori della nazionale? Io. Il più forte? No, fammi fare il tuo. Tu lo sai, dai. Più tecnico? Anche tu questo lo sai. Più simpatico? Anche questo lo sai. Più figo? Beh, questo è normale, no, dai. Il più bello? Troppo scontato. Dove metterai la scarpa d'oro dopo averla vinta? È normale. Ultima domanda. E questa è la migliore intervista che tu abbia mai fatto? Beh, con un giornalista come te è fantastica. Sono d'accordo. Balotelli che intervista se stesso. Matteo D'Alecco. Eccoci qua. Balotelli che intervista se stesso. Ah, bene. No, sentite, si faceva, non so, in questo trailer, non so esattamente da dove esca, dove abbiano pescato i ragazzi. Ma davanti allo specchio? Sì, si mette davanti allo specchio. Allora, chi è il più figo? Ma dai, lo sai. È il più forte? Che dai, sai anche il più tecnico? Dai, lo sai anche questo. Carina, sì. Dimmela. Ma tanto per intervenire un attimino, per fare un po' di chiarezza su quello che è stato il discorso ieri di Safety Bike, non Safety Bike al Giro d'Italia. Io sono in carovana ed è per questo che mi è venuta voglia oggi di telefonarti, perché abbiamo sentito un attimino un po' di tutto. Ma questo per screditare quello che ti voglio dire io, per screditare anche un po' Nairo Quintana, no? Perché io ieri in carovana ero in macchina e ti posso garantire che le comunicazioni radio dalla direzione corsa ce ne sono state tre, in tutte e tre le lingue, e ti posso garantire che era chiara la comunicazione, dicendo che di non fare dei sorpassi in discesa, e che mettevano queste moto con la bandiera rossa. Che poi Quintana la discesa l'abbia fatta a 100 all'ora piuttosto che farla a 50, o addirittura come si sono fermati gli altri, lui magari è stato più bravo a interpretare questa regola. Lui non ha sorpassato nessuno, ha fatto la discesa più forte. Se poi gli altri non gli sono andati in coda, è un problema degli altri. Sì. E secondo me è inutile che vanno a lamentarsi anche i direttori sportivi. Sì. Se poi noi abbiamo in macchina dei direttori sportivi tanto decantati, con 3 stelle, super licenze per fare il direttore sportivo nel Pro Tour e poi abboccano un mezzo tweet con scritto gara saltata. Allora, no Matteo, appunto, no, perché mi sei partito dicendo per screditare Quintana? Per accreditare Quintana. Accreditare un po' quello che è successo. Lui ha, secondo me, quello che mi domando, la domanda che mi faccio è molto semplice. C'è un arbitro? Sì. Perché l'arbitro non ha fischiato? Evidentemente perché non avevi motivi per fischiare. Se poi, a maggior ragione, tutto questo casino è stato creato da un tweet e da un'invenzione dell'ultima ora, quale quella della Safety Bike, allora sono problemi di altri, certamente non di Nairo Quintana, perché nei regolamenti, nei testi sacri del ciclismo, non c'è scritto da nessuna parte che un tweet faccia fede o che un'invenzione come la Safety Bike possa essere... Non è prevista, possa essere utilizzata in una gara di questo tipo o debba essere utilizzata in certe situazioni. Dunque, sembra che tutto molto chiaro nel magma che si è venuto a creare, e per me, come valutazione, la vicenda finisce qui. Guai a chi tocca quella camisetta rosa, dal mio punto di vista. Lorenzo da Palermo, a proposito di camisette rosa. Sì, no, io volevo intervenire a proposito dei mondiali. Sì. E allora, intanto... per me Ballotelli non dovrebbe giocare, no, perché è troppo statico, non corre poco e soprattutto poco prolifico. Un centravanti che fa pochi gol come lui non so a cosa possa servire, e questo è un tema. Poi volevo dire una cosa a proposito di mondiali che uno ricorda. Io ricordo quelli del 78, dove ci fu una squadra simpatia che era l'Italia, poi semifinale e finale andarono male perché Zoffi pigliò 4 gol da 100 metri, però la ricordo come una squadra che faceva spettacolo. Volevo dire soltanto questo. Sì. Allora, sul primo punto, secondo punto sono d'accordo, sul primo no, non penso che Balotelli possa essere considerato un attaccante statico, tanto che non solo il suo attuale presidente Silvio Berlusconi, ma anche il suo attuale CT Cesare Prandelli hanno detto: no, aspetta un attimo, tu devi stare là vicino alla porta e fare quello che sai fare. Poi Balotelli poco prolifico dal punto di vista delle partite giocate, se andiamo a vedere il rapporto anche in questa disgraziata stagione milanista, o se facciamo il conto della sua esperienza milanista da quando è arrivato, se andiamo a leggere il rapporto tra presenze e numero di gol, beh, ci rendiamo conto che non è così poco prolifico, non è così stitico come attaccante, anzi è uno che la mette dentro spesso, e quindi io Balotelli nel mondiale me lo porto, lo faccio giocare, e come. Gianfranco da Verona, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare che poi Balotelli, Gianfranco mi perdoni, che poi Balotelli vada alla Juventus, questa è un'altra storia, perché dicono che vada alla Juventus. Io dico qualcosa anche io su Balotelli, attenzione. Per me Balotelli è un personaggio da club, non da nazionale, perché se dovesse fare una partita che non magari fatta male, che non indovini la partita, rovina tutto lo spogliatoio. Attenzione, è un personaggio, non posso dire, perché è un grande personaggio, però se dovesse andare male una partita, veniamo a casa, perché Balotelli ha rovinato tutto lo spogliatoio. Mi dispiace, perché ci tengo molto a questo personaggio, anche se è giovane e così via, sì. Però i caratteri di un club che può gestirlo, può darle sostegno e così però, via. Però Gianfranco, mi perdoni. No, abbiamo 20 giorni, 20 giorni, lo spogliatoio è molto importante. L'ho capito, però lo stesso non mi sembra che Balotelli abbia piantato dei grandi casini in nazionale, anzi mi sembra che non abbia piantato neanche uno da quando è lì, da quando lo chiamano. Lo stesso Prandelli tra l'altro ieri l'ha sottolineato, no? Ha detto: ma per la verità qui Balotelli si è sempre comportato perfettamente, quindi davvero non vedo questo rischio, davvero non vedo questo pericolo, davvero non vedo quest'alea, quindi cosa ha fatto Balotelli nazionale, ragazzi, ditemelo, al di là di quella storia che è inutile stare qui a rimangare adesso, che mancano 2 secondi alla chiusura del programma. L'unico casino che è venuto fuori intorno a Balotelli, in cui peraltro aveva ragione, è stata quella storia del Balotelli rappresentante antimafia eccetera, è stata quella polemica molto stucchevole a mio parere, ma per il resto lo stesso Prandelli ha detto: qui con me non ha mai fatto niente di male. Vincitore di oggi, chi prende la maglietta oggi? Raffaele, Roma, buongiorno.